Mezzogiorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. L'Istat corregge al rialzo la stima del PIL, più 0,8% nel 2015, disoccupazione stabile mentre sale quella giovanile, conti pubblici in linea con le attese del governo, i gufi stanno a zero, dice Renzi. Il direttore dell'Agenzia delle Entrate, chi non collabora conoscerà il lato oscuro dell'accertamento, record per la lotta all'evasione, scoperti quasi 15 miliardi. Regeni, torturato più volte in una settimana, riferisce la procura del Cairo. Secondo alcuni media egiziani, sarebbe stato tradito dall'azienda di intelligence con la quale aveva collaborato a Londra. Ancora tensioni ai confini europei. A Calais, in Francia, riprende lo sgombero della cosiddetta giungla, mentre sono quasi 10.000 le persone ammassate alla frontiera tra Grecia e Macedonia. All'Italia, ruolo guida per un'eventuale missione in Libia. C'è l'appoggio americano, situazione politica ancora in mezzo al guado nel paese. Il boom per il ritorno del commissario Montalbano in TV. Il nuovo episodio raccoglie 11 milioni di telespettatori con uno share medio del 39%. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri contatti sono sempre i soliti, 349-238-6666 per i vostri SMS e anche per i messaggi su WhatsApp, effettogiorno@radio24.it se ci volete scrivere. In apertura dunque oggi parliamo di economia con due fronti, il primo sono i dati sulla disoccupazione e sul prodotto interno lordo, il secondo è il rapporto dell'Agenzia delle Entrate con le parole che avete sentito, che vi accennavamo già nei titoli e tra poco insomma ci torneremo, del direttore dell'Agenzia delle Entrate Rossella Orlandi. Iniziamo dai dati però. Dopo tre anni di flessioni per il PIL italiano arrivano buone notizie. Nel 2015 l'Istat rileva infatti una crescita dello 0,8%, rivedendo così al rialzo le sue stime precedenti. Bene anche il rapporto deficit PIL che scende al 2,6%, si tratta del valore più basso dal 2007. Sempre nel 2015 invece la pressione fiscale è calata al 43,3%. Segnali di ripresa arrivano anche dal mercato del lavoro. A gennaio il tasso di disoccupazione è rimasto stabile all'11,5%. Nonostante la riduzione degli sgravi contributivi, il numero degli occupati è però cresciuto. I dipendenti a tempo indeterminato sono aumentati di 99.000 unità rispetto a dicembre e di 426.000 su gennaio 2015. Il dato complessivo rileva una crescita di 70.000 unità su dicembre e di 299.000 su gennaio 2015. Le cose vanno meno bene invece sul fronte della disoccupazione giovanile, il cui tasso a gennaio è risalito al 39,3%, il valore più alto dallo scorso ottobre. Rispetto a dicembre l'incremento è dello 0,7%, mentre su base annua il tasso risulta in discesa dell'1,6%. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Questi i dati che vengono commentati dal Presidente del Consiglio su Facebook e dal Ministro dell'Economia Piercarlo Padoan durante la presentazione del rapporto dell'Agenzia delle Entrate. Dunque partiamo proprio da questo, partiamo dalle reazioni e poi andiamo al rapporto dell'Agenzia delle Entrate. Lo facciamo con Vincenzo Miglietta che ha seguito questa mattinata. Vincenzo, buongiorno. Eh sì Simone, buongiorno. Dati quelli dell'Istat che il governo accoglie favorevolmente, la crescita c'è, commentano quindi prima il Presidente del Consiglio Renzi, poi il Ministro dell'Economia Padoan, sentiamo quest'ultimo. Il governo mantiene i suoi impegni di finanza pubblica, li mantiene in un contesto in cui la crescita c'è, perché questa crescita, ci dice il dettaglio dell'Istat, vede più consumi e più investimenti, ma soprattutto, e questo è, e lo dico sempre, il dato più importante per misurare il successo della politica economica, i dati sull'occupazione sono estremamente incoraggianti. Capitolo tasse, poi, al di là degli annunci di nuovi tagli, dice Padoan, che andranno comunque collocati in un quadro di compatibilità, andrebbero valutati gli impatti dei tagli già effettuati in termini di consumi, investimenti e occupazione. Dal ministro quindi soddisfazione per i dati sulla lotta all'evasione fiscale presentati dall'Agenzia delle Entrate, 15 miliardi recuperati lo scorso anno. Chi non ha risposto ad un approccio collaborativo conoscerà, permettetemi la battuta, il lato oscuro dell'accertamento, ha detto il direttore dell'Agenzia delle Entrate Rossella Orlandi. Ascoltiamo allora le sue parole. È ovvio, ma questo è normale, siccome questo è anche un paese in cui l'evasione c'è in alcuni casi anche molto pesante, quella parte di contrasto che noi facciamo la faremo forse maggiormente mirata, forse maggiormente efficace, proprio perché una parte di cittadini comincia ad avere un atteggiamento diverso rispetto al passato. Io credo questo sia il tentativo vero di cambiamento. E su successo per l'Agenzia delle Entrate anche sul fronte della fatturazione elettronica. Nei primi 20 mesi dell'introduzione sono state emesse 28 milioni di fatture con il coinvolgimento di 23.000 amministrazioni di 600.000 fornitori. È tutto, linea allo studio. E grazie Vincenzo Miglietta per questi aggiornamenti di tutto questo, del rapporto dell'Agenzia delle Entrate e di questo appunto lato oscuro dell'accertamento. Per chi ancora non lo conoscesse, parleremo più avanti col vice direttore del Sole 24 Ore, Salvatore Padula. Veniamo alle altre notizie, iniziando dalla vicenda di Giulio Regeni, perché arrivano informazioni importanti dal Cairo in questa giornata. Dario Ricci, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Simone. Beh, informazioni importanti da fonti diversificate, direi. Partiamo dalle indicazioni che arrivano tramite un giornale filogovernativo da fonti non meglio precisate della sicurezza egiziana, che ipotizzano che Regeni possa essere stato tradito dall'Oxford Analytica, il think tank anglo-americano attivo in Egitto e altri paesi medio orientali, che avrebbe prima utilizzato le informazioni ricavate dal giovane studioso italiano e poi lo avrebbe di fatto abbandonato. Ipotesi questa tutta da verificare, mentre tutt'altra consistenza hanno le indicazioni che arrivano dal direttore del Dipartimento di Medicina Forense del Cairo, Hisham Abdel Hamid, conferite al procuratore Ahmad Naji, sulla base dell'autopsia condotta in Egitto sul corpo di Regeni, che prima di essere ucciso con un colpo alla testa è stato interrogato per 5-7 giorni e torturato 3 volte ad intervalli di 10-14 ore. Quindi anche l'autopsia egiziana conferma questa drammatica realtà. Il tutto viene riportato, Simone, da un articolo apparso sul giornale locale Masri al-Yum, che già aveva parlato di torture separate da intervalli temporali avvenute nel corso di diversi giorni. Queste rivelazioni, vale la pena sottolinearlo, sono l'indicazione finora più chiara che il ricercatore italiano sia stato torturato dai servizi di sicurezza egiziani. Un altro elemento importante che viene riportato dal quotidiano Al Masri al-Yum è relativo al telefono di Giulio. Il telefono, che risultava staccato a partire dalle 20:25 del 25 gennaio, sarebbe ritornato attivo per qualche minuto il 26 gennaio, il giorno successivo alla sua scomparsa. Circa 12 ore dopo la sparizione, Regeni avrebbe ricevuto una telefonata e il cellulare avrebbe squillato a vuoto. Indizio non trascurabile, perché permetterebbe magari di individuare il luogo della detenzione. E poi, all'atere di queste indicazioni relative alle indagini, c'è una polemica, perché la compagnia telefonica Wind, che aveva lanciato in questi giorni, sta lanciando in questi giorni una campagna pubblicitaria con protagonista il famoso showman e comico Panariello, che pubblicizza di fatto le tariffe Wind simulando il fatto di essere torturato per rivelare queste stesse opportunità commerciali. Ebbene, questo spot è stato ritirato dalla Wind in seguito alle proteste di Amnesty International e Antigone della stessa famiglia di Giulio Regeni. È stato ritirato da Facebook e da YouTube perché, come sottolineavamo appunto, è stato considerato offensivo rispetto al tema della tortura. E da sottolineare che le associazioni, e vado a chiudere, la famiglia di Regeni, hanno chiesto alla Wind di ritirare lo spot anche dalla programmazione televisiva. Si aspetta una decisione in merito. Grazie Dario Ricci per questo aggiornamento. Noi ci spostiamo adesso a quello che sta succedendo nei confini interni d'Europa, tra Grecia e Macedonia, tra Francia e Gran Bretagna. Gli aggiornamenti con Anna Marino. Anna. Sì, buongiorno Simone, buongiorno agli ascoltatori. Le scene, queste sono delle parole appunto della portavoce della Commissione Europea, Margaritis Kinas, che ha parlato poco fa. Le scene che abbiamo visto alla frontiera tra Grecia e Macedonia ci preoccupano molto e dimostrano che la soluzione è quella europea. E questa appunto è stata l'affermazione del portavoce della Commissione Europea, che ha ricordato la necessità di agire in conformità alla legge internazionale. Ha rivelato anche, ha confermato che in una telefonata col premier greco Alexis Tsipras, avvenuta ieri, il presidente Jean-Claude Juncker ha assicurato fermo sostegno della Commissione Europea alla Grecia di fronte all'eccezionale crisi dei profughi. Intanto continuano le emergenze, come dicevi, sulla linea di confine tra Grecia e Macedonia. Anche oggi le forze di polizia, schierate in assetto antisommosse ed elicotteri, hanno sorvolato il campo profughi da 1200 posti, che ora contiene 70.000 persone, 2.000 bambini. Quiete oggi, dopo gli scontri di ieri, in cui centinaia di migranti hanno cercato di sfondare la rete metallica per passare il confine e protestare, come abbiamo ricordato, contro la quota limite dei 580 ingressi giornalieri e solo siriani e iracheni. C'è un primo bilancio, 30 feriti, sassaiole contro lacrimogeni. Sull'altro fronte ricominceranno le operazioni di sgombero da parte della giungla, nella parte sud della giungla di Calais, e la baraccopoli dei migranti che sperano di raggiungere la Gran Bretagna, interrotte ieri a causa di scontri tra attivisti. E Bernard Cazeneuve non cambierà niente. Nella notte comunque c'è stato anche qui una sassaiola, lacrimogeni contro appunto sassi, e dal Calais al confine greco, ricorda l'Unicef Italia, si è consumata una palese violazione della Convenzione sui diritti dell'infanzia. Intanto arriva sulla rotta balcanica, lo ricordiamo, il Presidente del Consiglio europeo Tusk, prima a Vienna, poi in Slovenia, Macedonia e infine in Grecia il 3 marzo in Turchia, in vista del summit Europa-Turchia sui migranti. E per ora è tutto. Grazie Anna Marino per questo aggiornamento. Dalla situazione dei migranti passiamo a quella della Libia, da dove tra l'altro partono molti dei barconi di profughi e immigrati che tentano la via del Mediterraneo per arrivare in Europa. Gli Stati Uniti aprono ad una guida italiana di un'eventuale missione. Sentiamo. A Tobruk ancora nulla di fatto per la fiducia all'esecutivo. Ieri una riunione dell'assemblea si è risolta nell'ennesimo nulla di fatto. Quando ci sarà un nuovo governo, tuttavia, gli Stati Uniti saranno pronti a garantire il massimo sostegno, ha assicurato il segretario alla difesa americano, Carter. Italy in particular being so close has offered to take the lead there. L'Italia, ha ricordato Carter in una conferenza stampa, che è così vicina al paese, si è candidata per il ruolo guida di un intervento internazionale di stabilizzazione. E gli Stati Uniti sono pronti a garantire il massimo sostegno. Per Carter occorre riportare al più presto il paese nordafricano in un quadro di stabilità, perché il caos non fa altro che dare linfa all'espansione dello Stato islamico. Da mesi Palazzo Chigi porta avanti il negoziato in coordinamento con i ministri della difesa e degli esteri e garantisce la propria capacità di entrare in azione in una settimana. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Passiamo agli Stati Uniti adesso, dove si attende la nottata di primarie, il cosiddetto Super Martedì. È Super Martedì per le elezioni primarie americane tra i repubblicani. Il voto contemporaneo oggi di una dozzina di stati è un referendum sullo scomodo e imprevisto frontrunner Donald Trump. Per i democratici in gioco è la conferma del ruolo di grande favorita di Hillary Clinton e il tentativo di riscossa del rivale alla sua sinistra Bernie Sanders. La maggior tensione è sicuramente fra i repubblicani, una nuova travolgente vittoria del costruttore e personalità televisiva, finora impervio anche a polemiche sulle sue citazioni del Duce e su appoggi ricevuti dal Ku Klux Klan, minaccia di mettere alle corde i candidati preferiti del partito, a cominciare da Marco Rubio, e Ted Cruz, se sconfitto nel suo Texas, sarà quasi di sicuro costretto al ritiro. Nei ranghi democratici Sanders, se vuole sopravvivere, deve evitare negli stati del sud una nuova schiacciante sconfitta del calibro di quella sofferta in South Carolina, e deve vincere a nord. Certo è che le urne, che dal Minnesota all'Alabama si chiuderanno questa notte, promettono di cambiare ancora il volto di una drammatica e incerta corsa per la nomination alla Casa Bianca. Marco Valsania, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New York. E naturalmente sarà tutto questo al centro della puntata di oggi di America 24 con il nostro Mario Platero, in onda a partire dalle 13:45. Ci occupiamo di televisione adesso perché l'episodio si intitolava Una faccenda delicata, ma per il commissario Montalbano non è stata una faccenda delicata. Battere il record di ascolti con il 39% ieri sera ha superato se stesso. Venduto in 65 paesi, 28 episodi che su Rai 1 sono stati replicati oltre 150 volte. Sono trascorsi ben 17 anni da quel giovedì 6 maggio 1999, quando sugli schermi di Rai 2 debutta Il Commissario. Il primo film, dal titolo Il Ladro di Merendine, conquista oltre 6.200.000 spettatori, share del 24,45%, battendo il dimenticato Ispettore Giusti su Canale 5, era Enrico Montesano. Il secondo episodio supera il 27% e ne vengono girati presto altri. Nel 2002 Montalbano passa a Rai 1. La quarta stagione sale a 4 episodi, che totalizzano tra il 30 e il 34% di share. si sale al 37% in un episodio dell'autunno del 2008, il record assoluto fino a ieri nella nona stagione, Una lama di luce, ultimo episodio del 2013, 38,13%. Con l'ultima puntata però il primato è stato superato, 10.862.000 spettatori e il 39,06%. Il 7 marzo il prossimo episodio con una scommessa. Il commissario riuscirà a superare ulteriormente se stesso e raggiungere la quota di 11 milioni di spettatori? Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il calcio a chiudere questa prima parte con la serata di ieri che fa segnare l'allungo della Juventus. Carlo Genta, ciao. Ciao Simone, sì, la Juventus che allunga senza giocare perché bellissima partita a Firenze tra Fiorentina e Napoli, finisce 1-1 con il botta e risposta nel primo tempo, Alonso Higuaín nel giro di un paio di minuti, finisce così in pareggio, un pareggio che appunto serve più che altro alla Juventus. È vero che la Fiorentina aggancia la Roma al terzo posto 53 punti, però il Napoli a questo punto 58 contro il 61 della signora che ha una partita piena, di una vittoria piena di vantaggio a questo punto su un Napoli che però ha dato l'impressione di aver superato il momento peggiore. Ieri si è giocato anche a Roma, pessima Lazio, perso in casa 2-0 con il Sassuolo, ben diversa dal formato europeo della squadra biancoceleste, vittoria comunque importante per il Sassuolo che si conferma squadra in grado di rompere le scatole a quasi tutte le grandi. Stasera si gioca ancora, non c'è mai sosta, c'è il ritorno della partita di Coppa Italia tra Milan e Alessandria. Beh, direi che c'è un favorito segnato, scritto, no? Direi decisamente di sì, Carlo. Di tutto questo tornerete a parlare alle 14 in tutti i convocati. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade. Poi qualcuno ci dice, mamma mia, dice, ma non vi vergognate a parlare di Montalbano, non parlate di quello che succede in Grecia, in Macedonia. Tra un attimo, subito dopo il traffico, ci collegheremo esattamente con il confine, dove si trova un'infermiera di Medici Senza Frontiere e con la quale parleremo e ci faremo raccontare la situazione. A tra poco. Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it vi presenta... Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri titoli, l'Istat corregge al rialzo la stima del PIL più 0,8 nel 2015, i gufi stanno a zero, dice Renzi. Regeni è stato torturato più volte in una settimana, riferisce la procura del Cairo. Il direttore dell'Agenzia delle Entrate, chi non collabora conoscerà il lato oscuro dell'accertamento. Ancora attenzione ai confini europei, a Calais in Francia riprende lo sgombero della cosiddetta giungla, mentre sono quasi 10.000 le persone ammassate alla frontiera tra Grecia e Macedonia. All'Italia ruolo guida per un'eventuale missione in Libia, c'è l'appoggio americano. Il boom per il ritorno di Montalbano in TV, il nuovo episodio arriva ad uno share medio del 39%. Ed eccoci qua, dunque, al confine tra Grecia e Macedonia, da Didomeni, dove si trova Daniela Oberti, che è un'infermiera italiana che lavora con Medici Senza Frontiere. Buongiorno e benvenuta. Grazie, buongiorno a tutti. Una delle persone di cui andare fieri per il lavoro che fa, di italiani che sono fuori, ci dà un quadro della situazione, Oberti, per gentilezza, soprattutto dal punto di vista del quale vi dovete occupare quotidianamente, anche quello igienico-sanitario. Oggi abbiamo letto su Twitter il racconto di alcune persone che dicevano ci sono bambini che non possono essere allattati perché le madri non hanno abbastanza cibo. Sì, al campo di Idomeni, che è al confine tra la Grecia e la Macedonia, si trovano attualmente più di 8.000 persone. È un campo che ha una capacità di 1.500 persone. Il campo attualmente è abbastanza bloccato, nel senso che solo una media di 100 persone al giorno possono oltrepassare il confine e continuano ad arrivare nuove persone a piedi che raggiungono il campo. Persone che appunto hanno raggiunto la Grecia attraverso i barconi, come ben sapete, dalla Turchia e poi risalgono la Grecia e come in un imbuto si ritrovano bloccati ai Idomeni. Come vi dicevo, la capacità è ben inferiore rispetto al numero di persone, quindi sicuramente la situazione è inaccettabile, anche poco umana. Medici Senza Frontiere, con altre organizzazioni, sta facendo il possibile per offrire cure mediche, ma anche post letto, cibo, kit igienici proprio per evitare quello che diceva lei di diffusione di malattie. Si fa il possibile, ma è difficile raggiungere tutti, anche perché la maggior parte delle persone sono famiglie, quelle che vedo nel campo e nell'ambulatorio sono soprattutto famiglie, bambini, anziani, molti disabili, persone che hanno ricevuto delle bombe, delle esplosioni, quindi sono senza un arto, persone con patologie croniche che da settimane o da mesi non ricevono i loro farmaci per il diabete o l'ipertensione. Quindi una situazione abbastanza drammatica, le persone sono stressate e stanche perché sono ferme in questo campo anche da una settimana, 10 giorni, e non hanno nessuna informazione di quello che sarà il loro futuro. Hanno anche molta paura di non poter passare la frontiera. Senta, ci dica una cosa, lei ha assistito agli scontri di ieri, era là in zona, perché ci sta raccontando lei appunto della tensione che inevitabilmente attraversa queste persone, perché poi, parliamoci chiaro, non siamo nemmeno a primavera, siamo a febbraio, quindi proprio caldo tutto sommato non fa, quindi è evidente che poi gli animi si accendano in questa situazione complessa. Ieri mi trovavo all'ambulatorio di questo campo di Domeni e verso mezzogiorno e 30 abbiamo ricevuto 23 persone che sono state portate in stato di semicoscienza, con difficoltà respiratorie, con delle ferite e con bruciore agli occhi perché avevano ricevuto dei gas lacrimogeni lanciati da parte della polizia macedone. Tra queste persone c'erano anche molti bambini, il bambino più piccolo di 45 giorni, quindi c'è stata questa reazione per noi spropositata da parte della polizia macedone verso persone che stavano manifestando inizialmente pacificamente per avere informazioni, per sapere quando è possibile oltrepassare questo confine e non continuare a vivere in una situazione così poco, come dicevo prima, accettabile ed umana. Sì, questo appunto il quadro che lei ci sta fornendo anche per quanto riguarda gli scontri di ieri, ma vi è d'uscita al momento, ne vedete oppure no? Sta arrivando altro personale di MSF, ci sono aiuti di altro tipo? Sì, attualmente si continua a lavorare in questo campo, ma ci sono anche altre organizzazioni che forniscono anche cure lungo questo tragitto, perché attualmente ci sono in crisi circa 20 persone bloccate. Stiamo perdendo. Ad Atene, ma anche lungo la strada del Tessalonico fino ai Domeni. Sono molte persone che a piedi raggiungono il campo. Allora, Daniela Berti, io la ringrazio e magari torneremo a contattarla nelle prossime settimane per avere aggiornamenti su quello che succede. Intanto io voglio salutare Sonia Cellini. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Allora, abbiamo chiamato Sonia Cellini perché? Perché in questi giorni tanto si è parlato, anche fino alla noia, a dirvi il vero, della vicenda della paternità surrogata di Niki Vendola. Ebbene, Sonia Cellini è una persona che ha avuto 2 figli tramite la maternità surrogata ottenuta in Ucraina. E allora ci incuriosiva capire e comprendere un po' meglio la sua storia e capire quali sentimenti suscita, perché il grande dibattito in queste ore è quello che viene posto, è se si tratti, per così dire, dell'acquisto di un figlio, no? Propriamente detto. Ci racconta un po' come sono andate le cose per lei? Allora, io ho sofferto di una malattia che purtroppo non si guarisce, una malattia cronica e benigna che si chiama l'endometriosi. La mia era un'endometriosi molto severa, finché non mi hanno asportato utero e le ovaie, quindi per forza di cose ero sterile. E niente, la nostra scelta è stato in primo impatto di chiedere di avviare le pratiche per l'adozione. Abbiamo fatto un pre-colloquio con l'assistente sociale e lei ci ha detto di lasciare perdere, perché siccome c'era 10 anni di differenza con mio marito, lui all'epoca aveva 50 anni, io ne avevo 40, quindi diciamo che eravamo un po' fuori target, per così dire. Target, sì. Per così dire. Dunque, avete scelto la via della maternità surrogata. Diciamo così, con il patrimonio genetico di suo marito e una madre surrogata o un utero in affitto, per come vogliamo dirlo, in Ucraina. Ucraina, sì. Spendendo quanto? Spendendo 20.000 euro. 20.000 euro. Sì. Allora, quindi è funzionato. Come è funzionato? Avete scelto la madre voi? Come funziona? No, a parte che il pubblico dominio, comunque uno digita su internet, all'epoca comunque c'erano vari centri a Kiev. Siamo approdati in questa clinica che adesso non fa più le maternità surrogate ed è traslocato. Mi hanno presentato questa mamma che lo fa per mestiere. E quindi cioè di mestiere questa signora di mestiere fa la madre surrogata in sostanza. E questa non era la prima gravidanza di qualcun altro, diciamo così, che portava avanti? No, questa era la sua seconda maternità surrogata e lei avrebbe fatto anche una terza, perché in Ucraina fino all'età di 35 anni le mamme lo possono fare. Però l'unica cosa, il loro requisito è il fatto che la mamma surrogata deve essere già mamma da almeno di un figlio. Non possono farlo senza essere già mamma, e poi non deve essere niente di biologico loro. Quindi per forza di cose deve essere proprio estranea. È una maternità surrogata gestionale. Sì, e quindi appunto deve aver già un figlio, perché immagino che, come dire, in una valutazione che ha fatto il legislatore ucraino nello stabilire tutto questo, probabilmente ha detto questa donna deve sapere che cos'è una maternità prima di affrontare una maternità di qualcun altro. No, immagino che più o meno la ratio sia quella. Senta, mi dice una cosa, molti si stanno chiedendo, no? Il problema qua è il fatto che, tra le altre cose, che si strappi via un bambino, in questo caso due gemelli, no? Perché si tratta di due gemelli, che si strappi via un bambino, per così dire, dal grembo della madre, cioè la madre li partorisce, la madre surrogata in questo caso, e poi gli vengono portati via immediatamente. Sì, purtroppo è vero, e anch'io comunque ho pensato a lungo e ci sono stata anche molto male di questa questa cosa, sono sincera. Però loro hanno una freddezza tale che è una cosa veramente impressionante. Io l'ho anche ringraziata, lei mi ha detto non mi devi ringraziare perché è il mio lavoro e per me è normale. Io partorisco perché lei comunque ha voluto conoscere e ha voluto sapere il perché io l'ho fatto per via della malattia e dell'endometriosi. Oltretutto in Ucraina non si può fare la maternità, uno surrogato così. Bisogna essere sposati, presentare un certificato legalizzato. Senta, ma al di là della, come dire, della reazione fredda che ha avuto la donna, che tutto sommato potrebbe anche essere una reazione fredda simulata, lei non si è sentita appunto di aver tolto qualcosa a questa donna? Perché questo è il grande tema di dibattito in questo momento. No, è vero. È vero, mi sono sentita in colpa. Lei mi ha assicurato e mi ha detto no, ma hanno una tale predisposizione, perché lei mi ha detto io è il mio mestiere, io una figlia ce l'ho, questi non sono i miei figli. E quindi devo essere sincera, per me sarebbe inconcepibile. Mi ha fatto un gran regalo, quello sì, però lei non ha mai voluto neanche vedere i bambini, proprio niente, per lei anche alla prima volta che mi spiega una cosa, Cellini, ma come l'affronta la cosa? Cioè, per lei è inconcepibile e però, come dire, accetta che un'altra persona lo faccia per lei. Allora, per me inizialmente era inconcepibile questa cosa, poi ragionandosi sopra, poi parlando comunque con questa signora, perché comunque l'ho frequentata 10 mesi prima della nascita dei bambini, e comunque prima di cominciare tutto l'iter comunque questa persona l'ho incontrata, però dopo viene la rassicurazione di questa, la rassicurazione, chiedo scusa ma non essendo italiana, sì. Quindi però no, lei mi ha rassicurato tutto e quindi abbiamo avviato tutto il percorso in maniera comunque tranquilla. La ringrazio, grazie a Sonia Cellini che tra l'altro lo voglio dire perché come sapete, come vi ho raccontato prima, il suo problema è arrivato con l'endometriosi, quindi l'asportazione dell'utero, ed è anche presidente di un'associazione che si occupa di questo, una onlus che si chiama Ariane, che si occupa appunto dell'endometriosi. Ci faceva piacere, senza come dire dar giudizi, i vostri stanno arrivando via SMS e via WhatsApp, riportarvi questa storia anche per farci un'idea noi. Una pausa. Andiamo a sentire cosa succede sui mercati e poi nella seconda parte della trasmissione parleremo con Salvatore Padula, vice direttore del Sole 24 Ore, di questa frase del direttore dell'Agenzia delle Entrate: chi non collabora conoscerà il lato oscuro dell'accertamento. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. I nostri titoli: l'Istat ha corretto al rialzo la stima del PIL, più 0,8% nel 2015, sale la disoccupazione giovanile, stabile quella generale, conti pubblici in linea con le attese del governo, i gufi stanno a zero, dice Renzi. Regeni è stato torturato più volte in una settimana, riferisce la procura del Cairo. Secondo alcuni media egiziani sarebbe stato tradito dall'azienda di intelligence con la quale aveva collaborato a Londra. Ancora tensioni ai confini europei. A Calais in Francia riprende lo sgombero dalla cosiddetta giungla, mentre lo avete sentito sono circa tra le 8.000 e le 10.000 le persone ammassate alla frontiera tra Grecia e Macedonia. Il boom per il ritorno del commissario Montalbano in TV, il nuovo episodio raccoglie 11 milioni di telespettatori. Alla borsa. Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Vi presenta Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo con Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, e prima di tutto un aggiornamento che arriva sulle vicende siriane, ossia le dichiarazioni che arrivano dal presidente siriano Bashar al-Assad in un'intervista alla TV tedesca ARD. Faremo la nostra parte perché tutto funzioni, dice, in merito al cessate il fuoco, e offre ai ribelli un'amnistia e un ritorno alla loro vita civile normale a patto che depongano le armi. Ci occupiamo adesso dell'Agenzia delle Entrate, che oggi ha presentato il suo rapporto, un rapporto che contiene un record per la lotta all'evasione, che ha fruttato nel 2015 14,9 miliardi, somma più alta mai riportata nelle casse dello Stato, dice Rossella Orlandi, direttore appunto dell'Agenzia delle Entrate, la quale farà discutere per questa sua frase. Dice: chi non ha risposto ad un approccio collaborativo conoscerà, permettetemi la battuta, il lato oscuro dell'accertamento. Anche di questo vogliamo parlare con Salvatore Padula, vice direttore del Sole 24 Ore. Buongiorno Salvatore, benvenuto. Buongiorno, grazie. Buongiorno. Allora, che cos'è questo lato oscuro secondo te? Insomma, diciamo che è una battuta, se posso dire, abbastanza infelice, che certamente serve, come dire, a sottolineare un nuovo approccio, una nuova strategia che l'Agenzia delle Entrate sta cercando di adottare nella sua attività di lotta all'evasione, che è una strategia che è basata su un, diciamo, principio abbastanza semplice, che è quello che molto spesso è meglio come dire, invogliare, indurre i contribuenti a essere onesti piuttosto che intervenire dopo con metodi, diciamo, molto severi. Ricordiamo i blitz antiscontrini, eccetera. Da un po' di tempo l'agenzia crede, ritiene che con un'attività di monitoraggio preventiva su quello che i contribuenti dichiarano sia possibile intercettare prima eventuali errori o omissioni, segnalarli ai contribuenti e aspettarsi che questi si mettano in regola da soli. Ciao, questo è lo scenario. Oggi cosa succede? Succede che il direttore Orlandi, direttore dell'agenzia Orlandi, dice: beh, però attenzione, perché se dopo queste segnalazioni, se dopo questi alert che noi inviamo ai contribuenti, dico per inciso lo scorso anno l'Agenzia delle Entrate ha inviato ai contribuenti più di 300.000 lettere con le quali indicava irregolarità nelle dichiarazioni, sì, nei modelli, eccetera. Allora l'Orlandi dice: beh, se poi qualcuno non risponde, se poi insomma uno non risponde, allora, diciamo, l'azione del fisco lì ritornerà ad essere più severa. Più severa. Salvatore, però, ecco, qua c'è lo snodo centrale, mi sembra di capire, perché, come dire, l'importante è che tutto vada nella maniera giusta, perché in sé il principio potrebbe anche essere corretto, cioè io ti avviso bonariamente, se tu non reagisci nella maniera giusta poi ti colpisco più duro, e come ragionamento generale ci sta. È vero poi anche che dall'altra parte l'Agenzia delle Entrate e poi il braccio operativo della riscossione Equitalia, come dire, non sempre hanno mantenuto, come dire, un comportamento morbido, e anche in una prima fase, per così dire, no? E anche di fronte ad errori, come dire, non dovuti a una volontà di evasione. Sì, è purtroppo quello che dici è assolutamente vero, e forse, diciamo, questi sono proprio gli eccessi e, se vogliamo, anche gli errori che l'amministrazione deve essere in grado di evitare, soprattutto, diciamo, quando questo accanimento riguarda, diciamo, situazioni borderline, situazioni in cui non è chiaro se esista effettivamente una responsabilità, una colpa, un errore da parte del contribuente. Purtroppo, quando diciamo, finita questa fase del cercare di convincerti, insomma, e poi quando uno finisce dentro questi ingranaggi, questi meccanismi fatti di accertamenti ordinari, di controlli, di azioni legate alla riscossione, allora diventa più complicato, e sappiamo, insomma, quanto questo stia creando e abbia creato problemi a molti cittadini. Certo. Vero è anche, e questo, insomma, bisogna riconoscerlo, oggi lo diceva il viceministro Casero, che è intervenuto a questo evento organizzato dall'Agenzia delle Entrate, che comunque siamo un paese nel quale tra i 90 e i 100 miliardi all'anno di tasse sfuggono completamente, quindi, diciamo, è molto... Comunque, dice, cioè, in qualche modo bisogna muoversi, per così dire. In qualche modo bisogna muoversi, secondo me l'agenzia lo deve fare nel modo più corretto, e più, perché non mi piace la frase del lavorante, perché qui, cioè, io non voglio pensare a un lato oscuro dell'accertamento, io voglio pensare a un lato limpido, trasparente, chiaro dell'accertamento, dove il fisco faccia in modo inequivocabile e incontestabile il suo mestiere. Il lato oscuro non mi piace. Se esiste un lato oscuro dell'accertamento, non mi piace. Grazie a Salvatore Padula, vice direttore del Sole 24 Ore. Il momento di Daniele Biacchessi con la sua analisi dedicata alla Libia. Quello del segretario alla difesa americano Carter è un diktat più che un semplice auspicio. L'Italia, essendo così vicina, ha detto, ha offerto di prendere la guida in Libia, e noi abbiamo già promesso che li appoggeremo con forza. Ma l'Italia è pronta ad una missione militare così difficile e dagli esiti incerti? La posizione del nostro governo non sembra cambiata. L'Italia non è disposta a partecipare ad azioni su larga scala senza una cornice legale, ossia senza la richiesta di un governo riconosciuto a livello internazionale, e il nuovo esecutivo libico non si è ancora formato. Dal punto di vista militare, la macchina del RAID invece è in azione da giorni. Droni americani e italiani compiono ricognizioni aeree continue dalla base di Sigonella, mentre i velivoli francesi perlustrano l'area desertica del Fezzan e quelli britannici decollano da Cipro. I nostri AMX schierati a Trapani scattano foto e captano le comunicazioni radio grazie ad apparati a lungo raggio che gli permettono di restare fuori dallo spazio aereo libico. Grazie a questa tattica sarebbero già stati individuati almeno 200 potenziali bersagli. Ma la missione che dovrebbe essere affidata all'Italia prevede il dislocamento in Tripolitania di un contingente che possa contribuire alla difesa delle infrastrutture chiave per la sicurezza e la ripresa economica: porti, aeroporti, oleodotti, terminal petroliferi. E prevede soprattutto l'impiego di non meno di 5.000 soldati, che non sarà semplice mettere in campo in sole poche settimane. Il traffico America 24, ci risentiamo alla fine per i saluti.